all'arresto di Marco Milanese, la maggioranza dunque regge, ma ci sono 7 franchi tiratori. I timori per la crescita globale spaventano le borse, cali oltre 4 punti percentuali, lo spread BTP Bund resta quota 400. Sommossa nella notte al CIE di Torino, alcuni immigrati riescono a fuggire, a Lampedusa il sindaco chiude esasperato il porto. Cadrà sulla Terra domani pomeriggio il vecchio satellite della NASA, ma non si sa dove né quali danni potrebbe provocare. Buongiorno dalla redazione di GR24, da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dal voto alla Camera sull'arresto dell'ex collaboratore di Tremonti Marco Milanese. In diretta con noi Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Milanese viene salvato dalla Camera, 312 voti contrari all'arresto, 306 i favorevoli, ma è caccia a 7 franchi tiratori nella maggioranza che avrebbero votato a favore dell'arresto dell'ex braccio di Giulio Tremonti. L'opposizione infatti poteva contare su 299 voti, ma è arrivata a 306. Soddisfatto il premier Silvio Berlusconi, che poco fa ha parlato ai microfoni di Vincenzo Miglietta. Sentiamo il premier. Io non sono arrabbiato, sono sempre sereno. E sai perché? Perché non ho mai fatto niente di male in vita mia e quando posso faccio il bene per gli altri. Quindi io sono sempre sereno. Com'è? Altra domanda? Il governo va avanti, Presidente. Il governo va avanti. E come no? Altro che, stiamo lavorando in pieno. E il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitta nega che i franchi tiratori ci siano all'interno della maggioranza. Decisivo il voto della Lega e dei maroniani, che si sono attenuti a quanto deciso da Umberto Bossi. L'aveva detto che la Lega non avrebbe fatto cadere il governo. Abbiamo dimostrato di essere alleati leali, questo è il commento del leader della Lega. Critica invece l'opposizione, sentiamo Enrico Letta del Partito Democratico. Una scelta mia, per quella della maggioranza, che si arrocca e cerca di sopravvivere a se stessa, ma è chiaro a tutti che così non vanno da nessuna parte. Oggi Bossi ha un po' gelato Berlusconi, ha detto che non c'è nessun accordo per andare avanti fino a gennaio. Io credo che a gennaio non arrivano, non arrivano a dicembre, ma secondo me non arrivano nemmeno la settimana prossima. Se lo spread oggi è arrivato al massimo storico dei 411 punti, vuol dire che la situazione è totalmente fuori controllo, quindi il governo deve passare la mano. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E stamattina c'è stato anche il Consiglio dei Ministri con l'aggiornamento delle stime di crescita del nostro Paese. Come previsto, anche il Tesoro rivede al ribasso le stime sull'andamento della nostra economia, ma conferma l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Secondo Via 20 Settembre quest'anno, la crescita del prodotto interno lordo italiano si fermerà allo 0,7% contro l'1,1% della stima precedente, mentre l'anno prossimo scenderà allo 0,6% rispetto all'1,3% delle ultime previsioni, cifre messe nero su bianco nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che oggi è stata esaminata dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Tesoro quest'anno il deficit si attesterà al 3,9% del PIL, per calare poi all'1,6% nel 2012 e allo 0,1% nel 2013, raggiungendo di fatto l'obiettivo del pareggio di bilancio. Per quanto riguarda infine la pressione fiscale, si attesterà al 42,7% nel 2011, per salire al 43,8% nel 2012, al 43,9% nell'anno seguente, mentre nel 2014 dovrebbe ridiscendere al 43,7%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in Grecia oggi è giornata di sciopero contro le misure di austerity decise dal governo per fronteggiare la crisi. In diretta con noi da Atene, Vittorio Darold. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Sì, il paese è completamente paralizzato. Sono fermi naturalmente i trasporti pubblici, sono fermi i taxi, si fermano anche per 3 ore i controllori di volo, e quindi è veramente una situazione molto molto complicata per il settore del turismo. Inoltre ci sono manifestazioni organizzate dai sindacati, degli insegnanti, e ci sono altre manifestazioni proprio di fronte al Ministero delle Finanze da parte del FAME, che è il sindacato vicino al Partito Comunista. A questo punto cosa può succedere, Vittorio? Nel senso che ci sarà l'incontro con la Merkel, ma qual è la sensazione verso la quale si va a livello politico? Dunque, la sensazione è che il Papandreou stia cercando di ampliare la propria maggioranza. Oggi il maggior quotidiano del paese, Katimirini, chiede a gran voce un governo di unità nazionale, chiedendo appunto a, alla neodemocrazia e al partito conservatore all'opposizione di unirsi, ma il leader dell'opposizione, Samaras, ha già fatto sapere che non è d'accordo e ha chiesto elezioni anticipate, che sarebbero un ulteriore problema nel problema appunto della crisi economica. Grazie a Vittorio Darold da Atene. Oggi, come sapete, nuova giornata davvero molto difficile sulle borse europee. Il punto con Deborah Rosciani. Si accavallano tanti argomenti questa mattina che portano a ribasso nettissimo i listini del vecchio continente. Parigi meno 4,80 in questo momento, Francoforte meno 4,19, Londra in ribasso del 4,59%, per modo di dire resiste Piazza Affari che argina il calo al meno 3,68%. Cosa succede? Succede che sulle borse è ritornato lo spettro di una ricaduta in recessione, secondo quanto indicato ieri sera dalla Banca Centrale Americana nella sua riunione, nella quale ha preso questa iniziativa di rifinanziare il debito pubblico appunto attraverso l'acquisto di titoli di Stato con scadenza da 6 a 30 anni, vendendo al contempo titoli che hanno scadenza residua fino a 3 anni. Quindi è un'operazione che in gergo tecnico si chiama Operation Twist, per allungare la durata del debito e mantenere i tassi bassi, ma non ha per niente tranquillizzato tutto questo il mercato. Le indicazioni della Fed sulle difficoltà dell'economia sono quelle sulle quali gli operatori si concentrano questa mattina. In tutto questo ci si mettono insieme ripetuti tagli di giudizio delle agenzie di rating su tutto e tutti. Questo in queste ultime ore è toccato a molte banche, 7 banche bocciate da Standard & Poor's in Italia, fra cui Intesa San Paolo e Mediobanca, 3 grandi banche americane bocciate ieri sera da Moody's, e tutto questo appunto riporta nel vortice delle vendite i titoli bancari, ma per la verità stamattina i peggiori sono quelli industriali e quelli delle materie prime, che hanno proprio la paura della ricaduta in recessione. A Milano molto difficile di nuovo anche la seduta per la galassia Fiat, anche qui per effetto di un giudizio negativo di Moody's che ieri ha bocciato il debito dei titoli SPA, che perdono il 5,74%, Tenaris è il peggior titolo, meno 8,87, ma con meno 7 troviamo Pirelli, con meno 6 troviamo Prismian ed Exor, con meno 5,5 Fondiaria, Mediaset, e insomma è una giornata davvero nera. In tutto questo l'euro arretra nettamente sul dollaro, riportandosi sui minimi dal febbraio scorso a 1,34,34, e continua ad allargarsi pericolosamente lo spread fra BTP e Bund. Stamattina è salito a 410 punti base, siamo sui 400 punti, anche questo un altro segnale di grande tensione per il mercato obbligazionario. Piera, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. La Procura di Milano ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella vicenda Unipol BNL. La decisione dopo che la scorsa settimana il GIP Stefania Donadeo aveva ordinato l'imputazione coatta per il Premier, rigettando la richiesta di archiviazione. Il Premier accusato di concorso in rivelazione del segreto d'ufficio per la pubblicazione sul quotidiano di famiglia Il Giornale dell'intercettazione con cui l'allora segretario dei DS Piero Fassino dice all'ex numero uno di Unipol Giovanni Consorte: allora abbiamo una banca. E stamattina al Consiglio Superiore della Magistratura l'audizione del procuratore capo di Bari Antonio Laudati, accusato dall'ex PM Scelsi di aver rallentato l'inchiesta sulle escort portate da Tarantini nelle residenze del premier Berlusconi. L'audizione del procuratore di Bari Antonio Laudati davanti ai magistrati del CSM è iniziata alle 9. Viene ascoltato in merito alle accuse di aver rallentato l'inchiesta sulle escort accompagnata a Palazzo Grazioli dall'imprenditore Giampaolo Tarantini. A puntare il dito contro il capo della procura di Bari è Giuseppe Scelsi, che ha avviato l'inchiesta sulle escort prima di essere trasferito lo scorso mese di giugno alla procura generale. Dopo le dichiarazioni di Scelsi, la procura di Lecce ha iscritto Laudati nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, favoreggiamento e tentata violenza privata. Laudati, secondo l'accusa, avrebbe avviato un'indagine parallela a quella dei PM titolari dell'inchiesta, affidando le investigazioni alla Guardia di Finanza, senza, e questo è uno dei punti chiave, avvisare i PM che avevano aperto il fascicolo, ipotizzando il reato di sfruttamento della prostituzione attorno alla figura del Presidente del Consiglio, nodo cruciale, la relazione della finanza che mai è stata fatta leggere al PM Scelsi, che ancora non era stato trasferito. Questo è uno dei punti che il procuratore di Bari deve spiegare ai magistrati del CSM che lo stanno ascoltando, per valutare se in questa vicenda vi siano stati o meno comportamenti che impongano il suo trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tiriamo un po' il fiato con il calcio. Per Ranieri oggi il primo allenamento con l'Inter. Dario Ceccarelli. Sì, Pia, ormai siamo al dopo Gasperini con Claudio Ranieri, nuovo allenatore che oggi guida, appunto, come dicevi tu, il primo allenamento a squadra. Ranieri ha spuntato un contratto biennale da 2 milioni a stagione e prende in mano una squadra sotto shock. I tempi stringono. Sabato c'è già la partita col Bologna e le dichiarazioni fatte ieri sera da Ranieri sono ottimistiche, non potrebbero essere diverse. Ma restano molti interrogativi. Ranieri viene considerato un normalizzatore perché è un uomo di molta esperienza e perché la sua storia è quella di un tecnico che ha saputo ricostruire ambienti depressi, ma la società ha pesanti responsabilità. Da Madrid, quando vinse la Champions, a Novara sono passati 16 mesi, ben 4 allenatori, e in questo periodo l'Inter non ha risolto 2 grossi problemi: una rosa che doveva rinnovarsi e l'eredità di Mourinho che nessuno è stato in grado di raccogliere. Ci riuscirà Ranieri? Questo è il grosso interrogativo. Ecco, ma ieri è stata anche una giornata di campionato con alcune sorprese. Sì, Piera, hai detto bene. Bene, arrivano tra l'altro sorprese che non ci si aspettava. Prima di tutto è quella del Napoli, perché dopo così il brillante exploit col Milan ha perso a Chievo, quindi tutto sommato l'allenatore Mazzarri, che diceva calma, piano, andiamo avanti con giudizio, aveva ragione a mettere in guardia l'ambiente partenopeo. E poi se l'Inter piange, il Milan cerca di imitarla, perché ha fatto un pareggio un po' fantoziano con l'Udinese, ha perso patto e non ha ancora vinto una partita in questo campionato. Malino anche la Juve, che ha pareggiato in casa col Bologna. E quindi cosa si può dire? Che c'è molta confusione e tutti i giochi sono ancora aperti. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del no della Camera all'arresto di Marco Milanese, l'ex collaboratore di Tremonti. La maggioranza dunque regge per il momento, ma ci sono stati 7 franchi tiratori. I timori per la crescita globale spaventano le borse, cali oltre 4 punti percentuali, lo spread BTP Bund resta a quota 400. A poche ore di intervallo l'una dall'altra sono state eseguite negli Stati Uniti 2 condanne a morte. La prima, quella di Troy Davis in Georgia, ha suscitato davvero molte polemiche per i dubbi sulla colpevolezza del condannato. La seconda è passata invece sotto silenzio. Si tratta di Lawrence Brewer, 44 anni, bianco, membro del Ku Klux Klan, ucciso in Texas per l'assassinio razzista di un nero. Nonostante le due esecuzioni, la sensazione è che la società civile americana stia cominciando ad opporsi alla pena capitale. Cristina Carpinelli ha chiesto a Massimo Teodori, docente di storia americana a Perugia, se le cose stiano davvero cambiando. Il cambiamento in atto c'è, ma è molto molto lento, perché se noi andiamo a vedere le cifre nel corso del tempo, vediamo che ci sono sempre meno esecuzioni e soprattutto che aumentano gli stati in cui o ci sono delle moratorie o addirittura hanno abolito la pena di morte. Nella cultura soprattutto degli stati del sud e degli stati dell'ovest c'è una vecchia cultura della frontiera, e la vecchia cultura della frontiera è quella per la quale i pionieri che andavano a colonizzare queste terre incolte, coloni, commercianti eccetera, dovevano fare una giustizia sommaria, ed è di lì che nasce la pena di morte, ed è soprattutto lì che resiste la pena di morte. I presidenti non entrano mai in una storia del genere, tant'è vero che chi si è dato molto da fare è un ex presidente come Carter, ma in quanto ex presidente, non si è dato da fare quando era presidente, perché la legge, insomma, questo è il federalismo, il vero federalismo, volenti o nolenti, di questo bisogna prendere atto. Entro domani il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen consegnerà al Consiglio di sicurezza dell'ONU una richiesta formale di riconoscimento dello Stato palestinese, sia pur non richiedendo azioni immediate. Dal 48 è la quarta nascita di uno Stato palestinese. Il 1 ottobre del 1948, pochi mesi dopo la nascita dello Stato di Israele, quindi, Amin al-Husseini, il mufti di Gerusalemme, stava in piedi davanti al Consiglio nazionale palestinese a Gaza e proclamava l'esistenza del governo di tutta la Palestina. In realtà Gaza era sotto il governo egiziano di Re Farouk, i ministri non esistevano e il governo di tutta la Palestina non si è mai esteso all'intera Palestina. Così ricorda Daniel Pipes, è una figura di spicco del neoconservatorismo americano e categoricamente filo israeliano, di parte quindi, ma molto preciso nel ricordare gli altri tentativi di proclamare la nascita di uno Stato palestinese. Nel 1988 ad Algeri fu Yasser Arafat, allora capo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, a dichiarare l'esistenza di uno Stato palestinese, uno Stato che però non ha mai avuto alcuna sovranità sul territorio. 11 anni dopo, nel 1999, sempre Arafat ci riprovò e fissò per il 4 maggio di quell'anno la data della proclamazione. Poi fu rinviata, però. Poi ne riparlò all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, augurandosi che uno Stato indipendente palestinese nascesse entro il 2000. Non fu così e nel 2011 gli attori sono cambiati, ma le carte in tavola sono sempre le stesse. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E Laura Bettini ha intervistato Gabriele Iacovino, analista del CESI, il Centro Studi Internazionali. La ratio, la base della scelta di Abu Mazen è sicuramente quella di smuovere poi il quadro diplomatico, forzare la mano diplomaticamente agli israeliani chiedendo un riconoscimento per lo Stato palestinese alle Nazioni Unite. Ma se anche Sarkozy ha detto ni a questa richiesta, Obama ha già detto di no. Gli Stati Uniti non possono andare contro l'alleato storico israeliano, Obama non può andare contro la lobby ebraica negli Stati Uniti anche in vista delle elezioni del prossimo anno. Obama parla di un negoziato che non deve andare per scorciatoia, quindi cerca anch'egli di riportare gli israeliani e i palestinesi a un tavolo delle trattative. Il grande problema in questo momento dei palestinesi è che la controparte israeliana è tra virgolette politicamente debole. Netanyahu deve mantenere la propria maggioranza politica e basandosi su una piattaforma di destra, ma questa maggioranza politica non può fare troppe concessioni ai palestinesi. Il problema è che così facendo Israele potrebbe trovarsi ancora più isolata rispetto alla situazione in cui si trova oggi. Si è detto anche che se Abu Mazen tornerà a casa mani vuote, allora Hamas prenderà il sopravvento. È difficile che in questo momento Hamas prenda il sopravvento, prenda il controllo anche della Cisgiordania. È vero anche che un fronte palestinese così diviso è una condizione di difficoltà anche per il negoziato stesso. Ci sono due attori deboli in questo negoziato. Il problema è proprio questo alla fine. Sentiremo fra poco com'è la situazione oggi a Lampedusa dopo gli scontri dei giorni scorsi. Intanto nella notte disordini anche al centro di identificazione ed espulsione di Torino. Stanotte una ventina di stranieri sono fuggiti dal centro di identificazione ed espulsione di Torino. 3 agenti e 4 carabinieri, 3 feriti, 10 le persone arrestate. Sono questi i primi dati forniti dalla questura torinese, secondo cui la rivolta è stata provocata da una manifestazione di gruppi anarco-antagonisti della città. I manifestanti avrebbero fatto esplodere petardi e lanciato palline da tennis all'interno del CIE, contenenti dei messaggi che incitavano gli immigrati alla ribellione. Numerosi ospiti hanno infatti iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell'ordine, a danneggiare i cancelli e le porte dei moduli abitativi. Alcuni, al momento ne sono stati calcolati 22, sono riusciti ad aprirsi un varco all'esterno e a fuggire. 10 gli arrestati, tra cui un algerino di 24 anni e un altro egiziano di 32 che assieme ad altri con una spranga di ferro ha colpito alcuni agenti. Le accuse nei loro confronti sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Barbara D'Amico, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda la rivolta di Lampedusa, 4 migranti ritenuti gli autori dell'incendio che 2 giorni fa ha danneggiato il centro di accoglienza sono stati fermati dalla polizia. Sentiamo il sindaco dell'isola, Bernardino De Rubeis, intervenuto questa mattina ai microfoni di Alessandro Milan. Lampedusa è un punto strategico. Ieri il ministro ha fatto delle promesse nel tardo pomeriggio. La prima promessa, quella di trasferire nelle 48 ore, la seconda, quella più importante, che dichiarerà nelle prossime ore il porto di Lampedusa non sicuro per gli eventi SAR, nel senso che non arriveranno. Per gli eventi SAR sono salvataggi in mare praticati dalle forze dell'ordine. Ora dico non sicuro perché a Lampedusa non ci sono più strutture idonee, perché quella di Capoponente chiusa per essere risistemata e quella di Imbriacola incendiata, e pertanto ieri sera quelli che sono stati ospitati e sono immigrati e sono uomini hanno passato la notte a pochi metri di distanza. Cioè lei ci sta dicendo, sindaco, siccome siamo in chiusura, che se arrivano intercetta la finanza, la capitaneria, li portano una nave? Li porteranno a Porta Empedocle. Cioè nessuna nave arriverà più a Lampedusa. Ed ora la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Parlando parlando di evasione si pensa sempre alla mancata fattura o scontrino fiscale, ma esistono anche frodi più sofisticate e ben più sostanziose. La Guardia di Finanza, ad esempio, ha recuperato 2,7 miliardi di euro nel 2010 e 1 miliardo nei primi 7 mesi dell'anno dalla scoperta delle cosiddette frodi carosello. Il meccanismo è basato su operazioni triangolari tra paesi membri della Comunità Europea, con l'introduzione di una o più società che fanno da filtro, come spiega il colonnello della Guardia di Finanza Gianluca Campana. La frode carosello è un meccanismo di frode all'IVA e si basa sulla importazione di merci da paesi comunitari in sospensione di IVA, cioè senza applicazione dell'IVA. L'importazione avviene da parte di società che non presentano le dichiarazioni, rivendono la merce ai destinatari applicando l'IVA, che però omettono di versarlo all'erario e spariscono dopo poco tempo. Si tratta di delle cosiddette imprese cartiere. I beni attraverso queste società arrivano alla grande distribuzione a prezzi di mercato più bassi, una pratica che quindi non solo colpisce l'erario, ma anche le imprese che operano sul mercato in maniera corretta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo al caso del vecchio satellite della NASA che dovrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre domani pomeriggio. Nei giorni scorsi si era detto che sarebbe caduto sull'Italia, in realtà non c'è certezza sul luogo dell'impatto. E noi ne parliamo questa mattina, qui accanto a me Federico Pedrocchi, che noi conosciamo molto bene. Buongiorno Federico. Buongiorno a te e a tutti. Ci dobbiamo preoccupare? Ma no, perché questa cosa è già avvenuta altre volte, molte altre volte, e non ci sono gli estremi per cui dire che in questo caso ci sono elementi nuovi e particolarmente più allarmanti. Non è neanche da prendere come un fatto allarmante che le autorità non stiano dicendo niente. Non c'è solo la NASA che segue questo satellite, ma anche i nostri centri di ricerca e anche la Protezione Civile. Probabilmente questo può creare allarme perché questi stanno dicendo in queste ore non rilasciamo comunicati, ma non lo fanno per il semplice fatto che effettivamente una roba così che viene giù, finché non è veramente molto vicina al suo impatto finale, può avere distanze di 2000 km di differenza. Cerchiamo di non creare una situazione per cui, come girava prima, no? Cioè, non cade negli Stati Uniti, allora evacuiamo l'Europa. Non è così, bisogna stare assolutamente tranquilli. È altamente probabile che questa cosa si disintegri completamente. L'unica cosa che dà un po' fastidio è che è un oggetto da setto nel latte e mezza, quindi l'atmosfera per bruciarlo, per decomporlo, deve fare un bel lavoro. Può essere che non ce la faccia e quindi restino dei pezzi di 2, 3, 4 kg. In linea di massima, per l'esperienza che si è avuta, questa cosa non è accaduta, però insomma, vabbè, può darsi che staremo a vedere, ma insomma vedere. Secondo te dobbiamo davvero stare tranquilli? Sì. Grazie a Federico. Grazie a Pedrocchi. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.